Mari. Hello. Ciao Mari. Hello. Hello. E beh, grazie. Come vanno gli arresti domiciliari? Ma, per carità. Come se ne va? Come al solito. Da un macchino all'altro. Il pianerottolo, la gadrea, televisore, sempre le solite minestre. Non è che casino. Allora, oggi ho avuto tre chiamate per tre problemi di telefoni, di cui due non caricano, uno non carica proprio, uno carica male e un altro poco fa che c'ha il display rotto. Adesso devo informarmi se fa spedizioni, dove compro. Ehi, adesso è un casino con questo corso. Perché c'è il blocco, hanno bloccato anche le navi. Però no, i trasporti funzionano lo stesso. Penso che funzionano. Lo so che i trasporti funzionano, però il discorso è per questo cavolo di virus, capito? Poi mi ha mandato un coso che mi hanno mandato. Uno di cellulare a babbe che scoprisce. Boh. Solo per i beni essenziali. Cosa vuol dire? Per le cose più urgenti, no? Telefoni, o connettori di telefono, o display. È roba da magna, grazie, la cosa più essenziale. Niente di che a comprarmi qualcosa che mi mancava, che è andata mia figlia. E va poi 3 ore ma fa la vita, a chi la rivenne tra uno a uno, all'Eurospin. Cazzo, grazie, è un casino, veramente grande. Mi stasera ci prendiamo la pizza. Non lo so. Sarà aperta questa Sant'Orsola, io la prendo qua a Sant'Orsola. Noi la stiamo prendendo lì in via Grazia dell'Etta. Tanto ci va a portare anche a noi verso le 8:30. Fai 8:30, là. Se vuoi ti do il numero, la fanno col forno a legna. Aspetta, prendo la penna, me lo scrivo. Dimmelo il numero. Aspetta. 079 Poi. 25 35 20. E come si chiama la pizzeria? Obelix, via Grazia d'Aletta. Ma buona la faccio, fa tutte le pizze. Certo, si è fatto il forno nuovo da poco. Certo che fanno buoni, già a vendersi. Obelix si chiama. Obelix, con la X finale, Obelix. Me l'ho sognato. Ma io la sto prendendo qui a Sant'Orsola. Me la porta in 5 minuti mi arriva, Buzzendi. E in genere sto prendendo il calzone, quella chiusa. Buzzendi arrivi, quando me la arriva. Aspetta un attimino, sto ascoltando un messaggio. Vado in ufficio. E lui? Ciao Mari. E beh, Pino la lavatrice. È vero. E lui? Sto facendo l'aerosol. Aerosol? Eia, sto a farlo. Vai, tranquillo. Luca. Tino. Buonasera a tutti. Non ti sento. E adesso mi senti? Non te scuccio, mio hermano, non te scuccio. Cambia. Pomponio. Pomponio a me. No, c'è Pomponio anche, ciao Marco. Ah, anche Pomponio c'è. Ciao a tutti, io sento solo te. Mi senti, Luca? Forte e chiasso. Sì, ti sento. E adesso mi senti? Adesso poco. Cazzo, non capisco quest'altra radio perché si senta così poco. Non ti sento, Marco. Ancora di queste 19.180 virus, perché come sapete l'Istituto Superiore della Sanità sta portando avanti un'indagine epidemiologica e quindi sarà l'Istituto Superiore della Sanità a comunicarci questi dati. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi registriamo un incremento di 1.000 unità in più riferite ai nostri volontari e alle nostre volontarie. Ma col gomino non arrivi, capito, Marco? Col gomino non arrivo? E col gomone? Col cingomone arrivi benissimo. Ehi, infatti c'è un limite alla portata che può avere questa roba. Vabbè. Comunque già arrivo, non c'è problema. Così è una bomba. E adesso vediamo, Marco, dai. Più in là magari mi spieghi come fare e me la ordino pure io. Comunque, quando passerà il casino, io volevo già ordinarmela un'altra completa per me. Insomma, l'ordino per me te la prendi tu se ti interessa. La modulazione è buona lì. Come, Marco? La modulazione è buona, mi hai detto? Non si è arrivato adesso. Ho detto, mi senti? Sì. Cos'è che hai detto? Che la modulazione tua sei buona? Mi sento a momenti, lo sai. Adesso mi senti? Eia. Cos'è che mi hai chiesto della tua modulazione? Eia, sapere com'era questa timbrica, come la trovi? Aspetta, fai un passaggio. Prova, 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, 4, 5. Guarda su WhatsApp. Ti ho mandato l'audio, Marco, guarda su WhatsApp. Eia, comunque arrivo basso, si sente un medico rene. C'è un volume basso, Marco. Qua riprova, vai. Ok, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, prova mic, cap. Diciamo che arrivi un po' di fruscio sotto, vabbè, io sono in soggiorno adesso, magari se mi metto dalla parte, dall'altra parte, magari ti sento meglio. Posso, adesso è aumentato. Come, Marco? Posso aumentare, ecco, adesso è aumentato. C'è un po' di fruscio sotto, ma ti sento benissimo, Ti ho mandato la foto di quello che sto usando, dai. Mi senti, Marco? Ti dico io quando. Ma mi senti? Sì, sì, sto preparando il video, un attimino. Eia. Fammi un bel passaggio. Aspetta che vado. Vai. 1, 2, 3, prova di modulazione, prova radio, 1, 2, 3, prova microfonica, 1, 2, 3, 30, 40, 50, prova, Marco mi senti, cambio. Adesso te lo mando, dai. Cosa stai facendo? Aspetta, cuffetta. Tu qua arrivi, di un bene, non hai nemmeno fucile, adesso lo senti, che ti arriva. Arrivo bene, a voglia. Eia, guarda, in proporzione arrivi meglio tu che non io a te. Aspetta, guardami, aspetta. Mi sposto, me ne vado. Fammi fare un paio di chilometri, fammi mettere in moto, faccio un paio di chilometri, aspetta. Faccio la curva. Aspetta che c'ho un po' le gomme consumate. Aspetta, Qua. Aspetta, mi senti? Sì, è salito anche il segnale, è salito. Ok. Ecco, fa un passaggio. Aspetta che abbasso il baracchino qua. C'è gente al 10. Quando sei pronto, vai. Cappa. Faccio un passaggio. C'è gente anche al baracchino. Dopo do un'orecchiata. 1, 2, 3, prova. Canale 7 TMR. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Qua arrivi meglio. Molto, molto meglio. Lo sai che questa frequenza è un po' così. Che brutta voce che ho, però, mamma mia. Vedi la mia invece. Dunque meglio, meglio, segnale più forte, sì. Va bene, dai, io vado a mangiare. Saluto a tutti sul canale. Io sento solo te, se ci sono altri. Ciao Lu, a dopo, ciao. Aspetta 2 secondi, faccio una prova veloce, aspetta, Guarda un po' se è cambiato qualcosa. 1, 2, 3 dopo, sono più basso. Allora, sei salito 2 punti S rispetto all'inizio della conversazione. Ho messo... Guarda che te l'ho messo, aspetta. Ti mando la foto. Santiago 6. E adesso ho quella. Cioè, arrivi meglio con la piccola, non è possibile. Infatti arrivi limpido, limpido, limpido tu adesso, con questa antenna piccola. Limpido, senti qua, fondo scala. Ma con la piccola? Con la piccola, sì, adesso metto giù la grande, aspetta. Prova Marco. Eccomi, vabbè adesso non è bene o male, arrivi uguale. Adesso ho rimesso la grande. Premi, mutto. Aspetta, mi sposto. Vai. No, vabbè, sempre sei. Sei, naturalmente già lo sai come, no? Ti sposti di poco e di 1 millimetro e il segnale varia. Dunque, buono così, dai. Io vado a mangiare, Luca. Dai, sentiamo. E io, ciao.